giorno all'improvviso mi innamorai di te. Il cuore mi batteva. Bravo Salvatore. Bravo. Non chiedermi perché. Senti l'applauso da qui. Bravo. Ragazzi, dai un applauso. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Altra apertura verso Beck, cross profondo, attenzione, poi palla morbida, attenzione a Quaresma che si propone. C'è Koulibaly su Quaresma, il cross in mezzo, la deviazione, 1-0, 1-0 Beşiktaş. È brutto perdere così, è brutto, perché abbiamo giocato, abbiamo lasciato tutto sul campo, ma alla fine sfortuna. Non è la testa, non è il fisico, perché stiamo anche contro Roma, facciamo la corsa di più. Ma oggi tre palle vanno dentro con loro, è brutto. Jorginho difende questo pallone, retropassaggio a un'assurdità, Boubacar 2-1, è una follia come contro il Benfica, retropassaggio sciagurato. Il pubblico è sempre sacro, però quello che abbiamo bisogno è avere fiducia fra di noi, siamo un gruppo unito, io ho tantissima fiducia nei miei compagni, non ho nessun dubbio su nessuno, e basta che l'abbiamo tutti così. Parte Quaresma col destro morbido, alla deviazione, gol del 3-2, il gol del 3-2 con Aboubakar che colpisce nella difesa del Napoli che si addormenta ancora una volta. Aboubakar, 3-2 Beşiktaş, doppietta personale. Venendo da un campionato di alto livello ci hanno messo delle etichette addosso che secondo me non sono le nostre. Abbiamo ringiovanito molto la squadra e dobbiamo fare un percorso molto più lungo di quello che diceva qualcuno, ma questo mi sembra normale, e bisogna fregarsene anche di tutto quello che viene detto e bisogna pensare che in campo quando ci si diverte anche il pubblico e molto probabilmente si fa anche risultato. Beh, devo rimarcare innanzitutto la crudeltà assoluta di Giorgio De Luca, il nostro autore, quando ha messo all'inizio, prima della sigla, il bimbo che cantava un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Ma è chiaro che oggi è il giorno del processo, del processo al Napoli. Super puntata. Giovanni Capuano mi fa compagnia perché Pardo è a Napoli. Ciao Carlo, ciao. Beh sì, processo legittimo, ma tra l'altro c'è da capire tante cose. C'è da capire con chi e ce l'ha De Laurentiis. Proveremo a capire tutto quanto, anche con gli ascoltatori 800240024. Pierluigi Pardo, di cui avete sentito la telecronaca dei gol del Beşiktaş, e c'è ovviamente al telefono da Napoli. Ciao Pier. Sì, ho fatto anche la telecronaca dei gol del Napoli, tengo a precisare. Sì, no, non è che quello stavi zitto, ma... No, io ti dico che... Sì, dai, partiamo col processo. Partiamo col processo e partiamo col processo. Parto io? No, parte Enrico Fedele, storico Vai. Procuratore, tra l'altro anche dei fratelli Cannavaro, e profondo conoscitore dell'ambiente Napoli. Enrico, buongiorno! Buongiorno a voi. Che succede? No. No, non si tratta di un processo, assolutamente no. Niente processo. Io non mi, no, e ti spiego anche il motivo. Sì. Non sono d'accordo affatto con Sarri quando dice la squadra di giovani ci dovevamo migliorare, poi vediamo, poi giriamo. No, no, assolutamente. La Juve è sicuramente una squadra molto più attrezzata, ma il Napoli gioca senza Higuaín ed è quanto dire. Molti dicevano che era più forte perché Milik aveva fatto i gol. Milik, che è un buon giocatore, non è una prima punta perché gioca sempre da seconda punta, e il Napoli ha questo peccato originale. Però Sarri ci mette anche, poi gli fa la comunicazione, non si trovano. Il Napoli gioca nella stessa maniera ed è vittima della testardaggine del proprio allenatore, il quale sì. Insiste su alcune cose, insiste su alcuni giocatori e non ha mai una variante tattica. Che dovrebbe fare? Cosa dovrebbe fare? No, ma cosa dovrebbe fare quando una partita, per esempio, Gabbiadini, il Napoli ha un buco, non ha un centravanti. Okay? Sì. Gabbiadini è l'unico che, è pure lui una seconda punta, esattamente. Ma è l'unico che può giocare. Anche se è un giocatore a sangue freddo, nel senso che è poco emozionabile, non ride mai, non è mai contento, però tocca tre pallone, fa due gol. Me lo togli, domenica, quasi a dire tu sei il capo espiatorio e mi ammazzo l'uomo morto. E non va bene. E poi ieri, con tutto il bene che voglio al Napoli, è una partita importantissima. Il Napoli ieri non doveva perdere. Certo. Allora Sarri non riesce a capire che bisogna giocare in un certo modo alcune partite. Perché quella partita, anche col pareggio, era l'80% una qualificazione. Ma questo lo sappiamo, visto. questo lo sappiamo. Lo quindi il processo per Enrico Fedele è a Sarri. Pardon. Questa parola non ti piace. Non mi piace come la dite, perché non è valetta così. Diciamolo in italiano, perché noi sappiamo anche l'italiano. Il processo, come dice Biscardi, il processo, Biscardi. Sono d'accordo, penso che Sarri, l'abbiamo detto tante volte, quest'anno si giochi molto in un, visto che gli esami non finiscono mai, e quindi questo, insomma, a Napoli è più che mai d'attualità, sempre e comunque. L'esame di Sarri quest'anno è un ulteriore esame dopo quello ampiamente superato l'anno scorso. L'anno scorso ha dimostrato di essere pronto per una grande squadra. Quest'anno ha una sfida più delicata, se possibile, perché ha una rosa più completa, più profonda, e ha tre competizioni vere rispetto per l'Europa League, che comunque è importante, ma la Champions è un'altra cosa, mette un'altra adrenalina, dà un'altra scossa, e però ha appunto una rosa più profonda e deve gestire meglio le situazioni. Ecco, gestire, questa è la cosa che Sarri fa fatica a fare. Messi è un grande maestro di calcio, sicuramente l'ha dimostrato, e anche ieri il gioco offensivo del Napoli è stato all'altezza. Mi sembra che manchino alcune malizie, mi sembra che ieri si sia arrivati con dei giocatori stanchi, figli di un turnover che non è stato fatto, e poi il paradosso è appunto che schieri Maggio dal primo minuto perché Isai è stanco, insieme a Chiriches che aveva giocato un minuto, e Diawara che sono tre mesi che sta lì, lo fai entrare su un momento delicatissimo, tra l'altro non fa neanche male, sul 2-2, quindi è esattamente questo, cioè Allegri carità ha una rosa superiore, ha una squadra superiore, però Allegri dovrebbe fare, se mi passi la battuta, un po' di ripetizione di turnover a Sarri. Se posso intervenire, tu vedi che gli allenatori cambiano durante la partita, il re dei cambiamenti era Lippi, ho avuto il piacere di stare con lui, si cambia, anche Allegri cambia, il Napoli non cambia, come se fosse un suicidio. Però sai che cosa ho notato io? Che ciò avviene in tutti coloro che sono degli ottimi, a me Sarri è un ottimo allenatore, la domenica assolutamente, però si perde la domenica, questo per mia scienza. Tutti coloro i quali non sono stati dei grandi giocatori si sono applicati poi nella tattica, riuscendo molto bene, Seman, Sacchi, ho lavorato con Sacchi, e lo stesso Sarri. E allora la tattica ha il sopravvento spesso sul talento dei giocatori, non si rendono conto che sono i giocatori che risolvono le partite, e allora vanno sempre nella stessa maniera, sempre oramai anche in Europa. Sì, noi abbiamo visto il Benfica è venuto a Napoli per 25 minuti, Luigi ha commentato, credo, la partita, poi viene spesso a Napoli, a un certo punto per 25 minuti c'è da una bambola mai vista, se non ci salva perlomeno quella partita Reina e Isai sulla linea. Il Napoli ha fatto tre gol, due su calcio. Reina che tra l'altro adesso finisce pure sul banco degli imputati, perché sembra non funzionare più nulla. Reina non sta funzionando benissimo. Stagione ha avuto un infortunio. Però posso aggiungere un elemento prima del traffico. Voi continuate a parlare di Milik, Gabbiadini, Higuain, tutto quello che volete. Il Napoli quest'anno sta pigliando il doppio dei gol dell'anno scorso. Infatti, ma anche prima della bambola che ha preso dal 4-0 col Benfica nelle ultime tre partite e mezzo, anche prima comunque viaggiava su una media nettamente superiore a quella dell'anno scorso. È come se avesse disimparato la fase di non possesso palla. Mi sembra una squadra in cui prima funzionava tutto, ora non funziona più nulla. Io saluto e ringrazio Enrico Fedele, che risentiremo molto presto. Lancio il traffico, che siamo in ritardo, abbiamo già diversi ascoltatori e altri ospiti. Tutti convocati. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Tutti convocati. Allora ripeto, processo al Napoli, perché oggi mi sembra il giorno. Giovanni Capuano qui con me in studio, Pierluigi Pardo in collegamento da Napoli, dove ieri sera ha raccontato la partita per Mediaset Premium. Pino Taglialatera, buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, i problemi sono tanti e proveremo ora ad analizzarli. Partiamo dal primo, lo sottolineava prima Giovanni Capuano. Il Napoli ha cominciato a prendere un sacco di gol. Reina finisce sul banco degli imputati, però non, a inizio stagione non stava bene, poi è rientrato. Mi sembra che però davanti a Reina ci sia una squadra diversa rispetto a quella dell'anno scorso. È un problema il portiere? Abbiamo anche un problema portiere al Napoli, Pino? Ma non credo proprio, sono dei momenti che praticamente ogni portiere le cose non vanno bene. D'altronde avete visto ultimamente anche a Buffon, che è il portiere migliore al mondo da decenni, quindi può succedere un periodo negativo dove le cose non ti vanno bene e più poi si mette anche un po' di sfortuna e diciamo che poi subentra anche un po' di paura, perché così è il mestiere che ho fatto, so cosa si pensa in quei momenti, e questo praticamente ti comporta magari a non essere tranquillo e poi commettere qualche piccola incertezza che poi possa a qualche gol di troppo. Però credo che il problema non sia il portiere, credo che il problema in questo momento del Napoli è sicuramente un altro, è una questione mentale di tutta la squadra, qualcosa che quest'anno non sta funzionando, anche se sinceramente il Napoli gioca sempre un gran bel calcio, però ecco, fa degli errori individuali e quello sì, intanto proprio sta macinando record al contrario, terza sconfitta consecutiva e lo sappiamo, prima sconfitta in Champions League dopo sei vittorie a casa, sì, dopo sei vittorie in casa naturalmente a San Paolo, sì, sì. Allora io chiedo a Pierluigi Pardo, che era raccontata, e a Giovanni Capuano di dirmi quali sono secondo loro i tre principali problemi del Napoli in questo momento. Pardo. No, il problema principale, sono d'accordo con Batman, è di carattere psicologico, però ti dico, secondo me ribadisco, Sarri che è bravissimo. Ma psicologico deve... in che senso, Pierluigi? Psicologico nel senso che ogni cosa, ogni giocata è più pesante di prima, questa è la verità, perché il Napoli attraversa un momento complicato. Secondo me ci sono troppi giocatori in questo momento in difficoltà, e questo potrebbe, non ne ho la certezza, potrebbe essere dovuto anche all'assoluta mancanza di turnover che l'allenatore fa. Il turnover è una cosa strana, perché quando che vinci, e Sarri vince spessissimo, quindi non è che puoi stare lì a discuterlo, no? Finché vince è molto difficile dire però non ha giocato Diawara, però Rog, però Maximovic, però Kiriger. Finché vinci va tutto bene, giustamente. Però poi l'esperienza delle grandi squadre di oggi e delle stagioni complesse, e quella di quest'anno è una stagione nettamente più complessa rispetto all'anno scorso per il Napoli, perché ha molta più pressione addosso, sì, e perché ha la Champions League, e quindi sì, è un altro sport. E in quelle stagioni lì poi alla fine i conti e quindi la gestione dell'energia dei giocatori è decisiva, è cruciale, e in qualche modo il Napoli l'aveva già pagata l'anno scorso quando era arrivato alla parte finale della stagione, chiaro, ce lo ricordiamo, con una serie di giocatori, Gabbiadini demotivato, sfiancato dal fatto che non giocava mai, Mertens che aveva giocato pochissimo. Questa roba qui alla lo fine, stesso Higuain, che Giorginio, ti ricordi la Udine, aveva perso la testa, era stato espulso. Sarri quando dice che Giorginio è una vittima in questo momento perché la squadra gli si allunga davanti, certo, quindi non lui che non ha grande gamba, sì, però Giorginio è un mese che sta male, ragazzi, è un mese che Giorginio non è Giorginio, e quindi e non cambia mai da questo punto di vista Sarri. Per cui ribadisco, secondo me Sarri rimane un grande allenatore, la qualità del gioco offensivo del Napoli è indiscutibile, però ci deve essere un salto di qualità, e Sarri quest'anno deve farlo nella gestione del gruppo e nella comunicazione. Allora, vi do un flash, una notizia, risoluzione contrattuale tra la Roma e Rudy Garcia, che era vincolato fino al 2018, quindi al 2018 andrà al Marsiglia. Giovanni Capuano, per intanto te... vuol dire fuori uno per il dopo De Boer, ma poi ne parliamo. Guarda, secondo me i tre principali problemi in sintesi del Napoli. Uno l'ho detto prima, continua a giocare bene da metà campo in su, anche se ha il problema che non ha più il centravanti in questo momento, ma prende troppi gol, quindi si è rotto un equilibrio. Il secondo problema è Sarri, ha ragione Pierre in tutta la sua lettura, ma secondo me la chiave di lettura un po' più profonda, e cioè Sarri è un uomo abbastanza solo alla guida tecnica del Napoli, e forse non ha vicino nemmeno qualcuno che possa aiutarlo, ad esempio a prendere il coraggio, fare quel turnover, tipo? Andare a capire a chi ti riferisci? Qualcuno che lavori a fianco a lui, quel famoso raccordo, spesso è anche uno dei limiti di altre società, ne abbiamo parlato per l'Inter. Sarri non solo in questa stagione, ma in questa stagione il problema mi sembra sia già emerso anche a livello comunicativo, le questioni sugli arbitri, su tante cose. Mi sembra un po' un uomo solo. Il terzo problema del Napoli io credo sia l'ambiente. Io ho trovato una cosa vergognosa che i tifosi del Napoli in due partite consecutive, con la squadra che comunque esprime un calcio, ci prova, lotta, abbiano seppellito dei fischi Gabbiadini all'uscita contro la Roma, ieri Insigne e poi a fine partita tutta la squadra. Io credo che il pubblico del Napoli non stia in questo momento esercitando un fattore positivo. Io aggiungo che ragione Pier su Jorginho, non è più lui, non è più lo stesso giocatore, ed è un cardine del Napoli dell'anno passato. Aggiungo il fatto che Insigne, secondo me ieri sera inguardabile, onestamente, sta cominciando a diventare un problema. L'anno scorso, almeno per tre quarti del campionato, e lo ripeto, è stato il miglior giocatore italiano, quest'anno non è più lui. Pino, a te il giudizio su queste valutazioni. Pino taglia la tela. Ma guarda, credo che non sia il problema dei tifosi, perché i tifosi Napoli li conosco molto bene, il tifoso è napoletano. Da una grandissima mano, e quando fischia perché ha veramente troppo amore nei confronti della propria squadra. Il problema secondo me è stato di comunicazione, giustamente come avete detto voi prima, perché i tifosi hanno capito un qualcosa di diverso da quello che poi fondamentalmente è il lavoro che fa la squadra. Quindi la squadra, secondo me, quando è in campo fa sempre del gioco, un bel gioco, un gioco bellissimo, cerca di fare gol. Ma quest'anno magari abbiamo avuto anche la sfortuna di Milik, che secondo me era fondamentale per il modo di giocare di Sarri. In questo momento stiamo avvertendo proprio la mancanza. Per quanto riguarda Insigne, secondo me Insigne ha avuto il problema, ecco, come hai detto, di comunicazione, anche di comunicazione da parte dei suoi procuratori dall'inizio, che hanno fatto quel tipo di dichiarazione che secondo me non va mai fatta, per soprattutto per un giocatore che è napoletano e di Napoli, metterlo, ecco, su proprio alle mercé dei critici in quella maniera è stato un errore esagerato. Secondo me il Napoli in quel caso lì non è stato bravo a gestire certe situazioni, ecco, tutte queste piccole situazioni. Poi, se vogliamo analizzare bene tecnicamente e tatticamente, il gol che sta prendendo il Napoli sono tutti errori singoli. Non errore ecco, l'errore di Jorginho, che fa un passaggio ieri indietro che è assurdo, ecco, ha sbagliato un passaggio e ha sbagliato quello lì proprio fondamentale. Magari lì forse Reina poteva fare qualcosina in più, perché non era un tiro irresistibile. Il terzo gol fuori gioco, ma lì forse anche il portiere poteva fare anche qualcosina in più. Ecco, sono tutte piccole situazioni che portano d'altronde alla squadra ad arretrare, ad avere un po' più paura, e quando incomincia a prendere gol poi non la smette più, come quando non prendi gol non ne prendi più. Sono delle situazioni nel calcio che purtroppo a periodi si manifestano, e Napoli deve essere brava ad uscire quando è il vento contrario, possibile. Certo. Sì, come dice il trap, quando c'è la tempesta rimani nella cesta e aspetti che passi. Grazie Pino, a presto. Positiva. Arrivederci a tutti. Ciao Pino Tagliatela. Un'ultima cosa rapidissima, sia per Capuano che per Pardo. Allora, Sarri dice: dobbiamo provare a divertirci di più. È una dichiarazione quasi quasi paradossale dopo quanto sta succedendo, dopo quanto diceva Pierluigi Pardo prima, che insomma adesso il pallone in mezzo ai piedi pesa una tonnellata in mezzo ai piedi dei giocatori del Napoli. Ho un ascoltatore che mi scrive: il problema principale del Napoli ha un nome e un cognome, Gonzalo Higuaín, non è difficile da immaginare. Allora, Secchi, secondo voi, Pardo e Capuano, adesso il Napoli cosa dovrebbe fare? Ricorrere alla fantasia di Sarri, a un'invenzione tattica di Sarri, a qualcosa di diverso, oppure andare sul mercato last minute dei giocatori svincolati, oppure aspettare gennaio e prendere un centravanti? Il problema non è tanto offensivo. Ieri è pesato di più Milik, scusami, Albiol di Milik. Sì. Se guardiamo la partita di ieri, nel senso che la produzione offensiva è stata all'altezza e anche tutto sommato la realizzazione non è andata male. Quello che è stato assolutamente non all'altezza è la qualità del reparto difensivo, quindi secondo me non è questo. È chiaro che il vero paradosso è che il Napoli ha preso 5 giocatori nuovi fra centrocampo e difesa di livello, 6 con Giaccherini, sì. E però adesso in questo momento, io ieri durante la partita mi veniva in mente Duván Zapata, cioè ieri paradossalmente dopo l'infortunio di Milik il Napoli aveva bisogno di un giocatore con delle caratteristiche da punta centrale vera, forte, che in questo momento non ha. Sì, però sono d'accordissimo, quindi forse un centrocampista in meno, un attaccante in più oggi ti avrebbero dato la possibilità, però nessuno poteva immaginare se facesse male Milik, le attenuanti non mancano. Sul fatto di Sarri, il divertimento è bello, è bella l'idea del calcio divertente, sì, del calcio arrapante, però in certi momenti è un po' difficile. Esatto, questo è lo scatto secondo me che Sarri deve fare, e lo ripeto, lo dico con enorme stima, perché Sarri l'anno scorso ci ha insegnato quanto siano sbagliati certi preconcetti, quanto la definizione, certamente, di provincialismo. Cioè Sarri è un mito, è stato un mito l'anno scorso, perché ha dimostrato che dall'Empoli a Napoli poteva fare il fenomeno. Ma è ugualmente chiaro, ma oggi è la partita, oggi la partita è che Sarri non allena una squadra che si diverte, allena una squadra che ha la necessità, il dovere e la pressione di fare risultati. Assolutamente, a Torino lo sanno benissimo. Poi nessuno chiede al Napoli di vincere il campionato perché la Juve è più forte, però il Napoli non può rifugiarsi nell'idea che è il quinto monte ingaggi del campionato e che deve arrivare quinto. No, la storia dei fatturati non regge, tanto che c'è un ascoltatore che scrive: quanto fattura il Besiktas, dato che De Laurentiis continua a dire avessi fatturato la Juventus. Giovanni Capuani in un secondo. Sì, a parte che sulla partita secca può vincere chiunque contro chiunque e, sì, e il fatturato conta meno. No, abbiamo detto che è una questione soprattutto mentale, io sono abbastanza d'accordo, credo che l'infortunio di Milik abbia cancellato qualche certezza, perché si era creato il clima, partito Higuain, l'aveva raccontato anche qualcuno da quello spogliatoio, di voler dimostrare di non essere stati grandi perché c'era Higuain che faceva un gol a partita, ed è come se perdere Milik abbia fatto perdere un po' di certezze. A me continua a stupire che la difesa del Napoli, che noi abbiamo onestamente cantato con grande ammirazione l'anno scorso, perfetta nei meccanismi, i droni per studiare gli allineamenti, sì, si scappa, si attacca, e quest'anno sta facendo fatica. Continuo e credo sia più che un problema tattico e tecnico tattico più, ma più non, più che non riguarda solo la difesa, la ma ormai, certo, nel calcio sappiamo che le squadre insomma, che quella difesa non sia più forse protetta come era l'anno scorso, quindi che tutti i vari tasselli cominciano a non funzionare più. Allora, borsa che siamo in ritardo, poi ascoltatori 800 24 00 24. Tutti convocati. Tra poco nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Rieccoci! Convocati. Allora ragazzi, andiamo di corso. 800 24 00 24, tra pochissimo cominceremo a parlare con gli ascoltatori. Oggi questo palazzo del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano è il tempio dello sport, perché c'è un convegno di cui tra poco parleremo, Sport and Business, e stanno passando di qui grandissimi dirigenti e grandissimi campioni, tanto che dovrebbero, ci hanno promesso che dopo le 15 avremo in studio Elisa Di Francesca, che non credo abbia bisogno di presentazioni, così come dovrebbe essere qui con noi Sandro Campagna, CT della Nazionale di Pallanuoto, entrambe medaglie d'argento alle ultime Olimpiadi. Ma ne parliamo dopo, intanto io e Giovanni Capuano, prima di dare la parola a Maurizio e Nicola, ci siamo trovati fuori onda su un'idea magari bizzarra, però in questo momento, se Klose, tanto per fare un nome che circola, fosse ancora in grado di giocare a pallone, fosse ancora in grado di stare in campo, beh, io ci penserei. Ma l'analisi è che nessuna squadra grande gioca ormai senza il centravanti. Anche Spalletti ha messo Dzeko in mezzo all'attacco della Roma. Se Sarri non crede in Gabbiadini e ha dimostrato di non credere e di poterlo adattare da centravanti, da prima punta pura, certo, allora Giovanni, tanto vale che vada a cercarsi qualcuno da qui a gennaio. Anche perché in questo momento dovrebbe essere Gabbiadini più altri 10. Pierluigi. Sì, sì, no, sicuramente, sicuramente, ma questo è un discorso che abbiamo fatto il giorno dopo l'infortunio di Milik, però io ribadisco, il problema di ieri non è stata la sua fase offensiva. No, però Pier, il giorno dopo l'infortunio di Milik pensavamo che Sarri riuscisse ad andare d'accordo con Gabbiadini, tatticamente parlando, intendo. Oggi, dopo due partite, qualche dubbio l'abbiamo. No, ma il problema non è Gabbiadini, secondo me, ribadisco, scusa, sono un disco rotto. Il problema ieri non è stata la fase offensiva. Ieri il Napoli ha costruito 18 calci d'angolo, ha fatto 11 tiri in porta. Non è quello, secondo me non è quello. È in altri equilibri, in altri giocatori che sono completamente... Ma tu credi siano errori singoli, come si diceva prima, oppure è un'intera squadra che non funziona più per quanto quando la palla ce l'hanno gli altri? In qualche modo, quando Sarri dice che Jorginho è in difficoltà, ma è la vittima del momento di difficoltà perché la squadra si allunga, sta di fatto dicendo che la squadra non ha più l'intensità e la capacità di rimanere stretta dei tempi migliori. Questo è evidente. Detto questo, poi la partita il Napoli la perde per degli errori anche individuali, e che nascono da una situazione psicologica difficile, da anche un po' di sfiga. Questo pure è un elemento, insomma, non va sottovalutato, ma certamente nascono da questa situazione, da questa fase di errori dei singoli. Quindi, ripeto, ieri secondo me paradossalmente l'attacco è riparto da domenica. Sì, se guardi i numeri, il Napoli i gol li fa, però non poi è più che alla lunga, una prima punta di peso possa tornare utile, questo è evidente. Ma per come è strutturata questa squadra? Sentiamo gli ascoltatori. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Grazie a cosa mi sento? Io mi sento rassegnato e svuotato come alcuni giocatori del Napoli l'ho visto ieri. Io penso che abbia giocato molto alla frase di Sarri che ha detto tempo fa che la Juve è su un altro pianeta, e insomma, in poche parole, che nessuna squadra riuscirebbe a vincere lo scudetto e su qua non ci piove nessuno. Quindi io penso che molti giocatori, un po' anche l'infortunio di Milik, ha giocato molto psicologicamente, nel senso che giocano senza non avere un obiettivo, qualcosa, come tutte le altre, non è che allora non gioca più. Carità, però cioè, ti vedo allora che fai? Ti ritiri dal campionato e dalla Champions, che dice, tanto non ci arriviamo. Rassegnato tu, io sono d'accordo su quella frase di Sarri che è stata sbagliata e che poi ha parzialmente rettificato. Però se sei svuotato perché sai che non puoi andare a prendere la Juventus e non puoi magari fare strada in Champions League come sembrava praticamente fatto, e allora che cosa facciamo? Siamo a ottobre, è lungo arrivare fino a giugno, ragazzi. Per me il Napoli, se si ricompatta, va in Turchia e non perde. Non è tanto questo. In generale, secondo me, c'è un fatto di mentalità che è il tema. Io sono d'accordo con l'ascoltatore. Non è che uno, siccome Sarri dice quella cosa, un giocatore, cioè, tu dici Napoli, rassegnato e svuotato, no, sono due parole corrette? Io dico che in un meccanismo come quello del calcio di altissimo livello, dove contano i dettagli, quindi contano anche questi piccoli aspetti, piccoli, grandi aspetti, che sono la comunicazione, il comunicare all'interno e all'esterno della squadra in maniera corretta, sicuramente quella frase lì non ha aiutato. Il basso profilo, secondo me, funziona fino a un certo punto, nasce da un obiettivo che è un obiettivo anche condivisibile, che è quello di togliere pressione alla squadra, ma non è che se Sarri dice che il Napoli deve arrivare al quinto che improvvisamente crolla la pressione sui giocatori del Napoli. La pressione c'è, perché il Napoli è arrivato secondo l'anno scorso, perché quest'anno ha perso Higuaín, ma ha comprato altri giocatori, perché è una grande realtà, è una grande società, è una grande piazza. Come dice d'altra parte De Laurentiis, e mi sembra che ci sia anche qualche piccola crepa, ma anche a leggere le dichiarazioni tra De Laurentiis e il suo attuale allenatore. Nicola, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono anch'io molto deluso perché sono tipo del Napoli, quindi dopo intervenire, dopo che tu puoi vedere di tutto, è difficile aggiungere qualcos'altro. Volevo provare a dire una cosa del genere. È vero che ci preoccupiamo magari troppo di Gabbiadini, di Milik, ci prendiamo troppi gol e magari il problema è altrove. Però i gol non sono tutti quanti uguali. I gol, se la squadra avversaria è più brava, che li faccia pure. Ma il problema è che noi li regaliamo. Noi ti stiamo regalando i tre della Roma e i tre di ieri, quei sei lì, sì. Quattro sono regalati. È quello che ha ripetuto almeno sei volte in maniera perfetta Pierluigi Pardo, che ieri sera il Napoli l'ha visto e commentato in TV. È vero, ma ieri è stata una partita assurda, una partita sciagurata, piena di cose assurde. Assurde, in positivo e negativo, perché poi è vero che il gol in fuori gioco sicuramente c'era. Ma sì, quella fa parte del capitolo sfiga, sì, va bene. Sul fuorigioco di Gabbialini, però è anche vero che poi alla fine ti hanno dato due calci di rigore in un quarto d'ora, il secondo dei quali è abbastanza generoso per la dinamica, sì, anche sì, se poi sì, un minimo sì, contatto c'è. Quindi sì. Io credo che il Napoli ieri abbia avuto comunque, ed è stato bravo Gabbialini a prenderselo dal dischetto, la possibilità di rientrare in partita, di tenere un risultato importante, e lì si è vista secondo me la mancanza di maturità della grande squadra, che capisce secondo me anche che un pareggio ieri non è da buttare via, in qualche modo lo porta a casa. Secondo me anche ai turchi non faceva schifo il pareggio. No, certo, due. Certo, no, cioè, certo. Quindi che ti devo dire, mi sembra... allora vuol dire in sintesi che il Napoli dell'anno scorso l'abbiamo un po' sopravvalutato. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo subito. Tutti convocati, vado a giocare, ci vediamo dopo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Tutti convocati. Messi, arrancó Lionel, buena, Iniesta atrás, puede que sí, ¡gol! Barcelona, Messi, claro que sí. A esta acción que tiene el Manchester City, pase atrás de Gundogan, ojo, se la va a llevar Suárez, delante de Willy, el pase para Messi, gol. Ragazzi, ieri sera il Napoli adesso è sul banco degli imputati, ne stiamo parlando ovviamente, però non è quella che se l'è passata peggio nella notte di Champions League, perché il City di Guardiola, che sta dominando il campionato inglese, che è in testa al campionato inglese, quasi a punteggio pieno, ieri è stato distrutto, disintegrato dal Barcellona e da Messi, che ha segnato tre gol. Giovanni Capuano, meravigliosa la prima pagina di Sport oggi. Sì. Dio mio, con la foto di Messi. La foto di Guardiola che guarda, no. La foto di Guardiola la cerco, guarda, ma non credo. Ma poi lo chiediamo a Filippo, dopo. No, subito. Se c'è. Subito glielo chiediamo. Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Dove l'hanno messa la foto di Guardiola? Dov'è la foto di Guardiola? Tra i necrologi. Dai. Dai, Capuano. No, ma non sono... In realtà il titolo, secondo me, più ironico è quello del Mondo Deportivo, che ha messo Messi in copertina, e il titolo è Il Puto Amo, che era la famosa frase di Guardiola... perché è il Mondo Deportivo che ce l'ha molto con Guardiola, e quindi gli ha dato una piccola stoccata nell'ennesima caduta di Pep in Spagna. Intanto da quando è venuto qua a Barcellona è venuto due volte, se n'è andato via con un 7-0 complessivo. In Spagna 4 partite, 4 sconfitte, non ha ancora fatto un gol. Diciamo che è meglio che vada a giocare in altri paesi del continente, perché sì, qui proprio non gli viene molto bene. Non gli viene molto bene. Un po' di traverso. E io credo, Pardo, che ci sia anche qualche, non lo so, un leggero spirito di rivalsa nei confronti di Leggerissimo, proprio un leggero spirito di rivalsa nei confronti di Pergolano. Appena accennato. Cosa dici? 5 gol di Messi anche, no? Cinque gol di Messi. Sì. Così, giusto così, per dirgli sì, va bene, sei un grande allenatore, però Magari contano anche i giocatori, no? Forse. Che dici, Pier? Sì, contano i giocatori. Il City a me è una squadra che io non l'ho ancora inquadrato completamente, anche in Inghilterra il City era partito molto bene, però a me sembra una squadra, non lo so, io sono molto curioso di capire come va quest'anno in Inghilterra, perché mi sembra una squadra con meno personalità e alla fine meno talento rispetto ad altre. Ad esempio al Manchester United, che pure dietro ha delle difficoltà abbastanza evidenti, ma secondo me anche l'Arsenal e Liverpool sono due squadre che potrebbero beccare la stagione della vita. Insomma, secondo me anche in Premier ci possiamo divertire. Il Chelsea credo sia ancora un filo dietro, No, ieri è stata, vabbè, ieri è stata una pagina, sì, capoletto. Più di una sconfitta, no? Proprio è stata un'umiliazione, è stato un rimettere a posto, riportare, ecco, visto che oggi è il giorno di Rudy Garcia, a riportare la chiesa al centro del villaggio. Centro del villaggio. Sì. Giovanni, anche a me il City non sembra una grande squadra, però è anche vero che non puoi concedergli il tempo che chiede De Boer, però anche Guardiola, per imporre il suo calcio un po' di tempo. Ma il suo calcio secondo me già si sta vedendo, perché seguendo qualche partita del City si vede che è cambiato il modo di approcciare ed è presto per fare un bilancio di quello che sarà il City quest'anno. Sicuramente sarà protagonista, sì, fino in fondo, però il tema che rilanciano, e qualcuno lo scrive anche nei messaggi, è un altro, perché Guardiola esce da un'esperienza in Germania in cui vincere la Bundesliga era scontato e in Europa ha fallito, e quindi magari comincia anche a essere il momento di interrogarsi su Guardiola. Lo faremo per tutta la stagione, su quella che è la sua reale dimensione al di fuori di Barcellona. E questo è interessante. E quindi quanto ha pesato Messi e tutto il resto, e quanto ha pesato Guardiola nel costruire la leggenda di questo allenatore. Ricci, che ne pensi? Allora, due cose. Lo rimettiamo in discussione? Allora, due cose. Vai, abbiamo discusso Buffoni. Ha fatto tre semifinali, no? Quindi, è stata, diciamo, che non è un fracasso, come si dice qua. Parli come Mourinho, però, se fai così, esatto, parli come Mourinho. Esatto, il semifinalista Mourinho, che fece tre semifinali al Madrid e venne per questo procedimento. Seconda cosa, il City è una squadra orrenda, perché io l'ho vista, è arrivato orrenda. Parlando di semifinale. È arrivato in semifinale Alma contro il Madrid qua, cioè, l'anno scorso, ed è una squadra che camminava, una squadra impresentabile e che non è stata rivoluzionata quest'estate. Ci sono stati alcuni ritocchi e attenzione, qua arriviamo al peso di Guardiola. Uno dei ritocchi è il portiere, preso perché sa giocare coi piedi, no? Sì. Disastro nel derby con lo United, disastro ieri sera, per cui scelta siamo sbagliata. E altra cosa, in alcuni frangenti ieri il City ha giocato anche parecchio bene. Ter Stegen ha fatto tre grandi parate, però io se vogliamo ampliare il discorso su una scelta tattica, non riesco a capire perché ieri sera non abbia fatto giocare Agüero, è l'attaccante migliore che c'ha. Il Barcellona ieri, quello che va detto, parlando sempre di uomini, è che aveva una difesa impresentabile, quando si sono, tra infortuni vari, no, giocavano Mascherano, Mathieu, Umtiti e Digne. Tre intanto sono Mancini e due dovevano giocare sulla destra, ma Mascherano faceva il terzino e insomma non usare Agüero contro una difesa così per me è una sciocchezza, e non fare gol a una difesa così insomma vuol dire che le cose non vanno bene. E mettere in discussione Guardiola sicuramente è chiaro che era complicato, ritorno al punto iniziale e poi vi lascio la parola, era complicato tirar su una squadra piena di limiti, perché il City aveva tantissima gente. Questo è indubbio, non è stata rivoluzionata e probabilmente non sono stati presi neanche i giocatori che Guardiola aveva chiesto, cioè la lista non è stata completata. Io saluto e ringrazio Filippo Maria Ricci e ovviamente Pierluigi Pardo, perché è il momento l'altro tema è se Messi può sfilare il pallone d'oro a Cristiano Ronaldo. Beh, ma tanto è una lotta a due, quindi però che a me appassiona, devo dire la verità, pochissimo. Allora, adesso andiamo col GR. Dopo io aspetto con fiducia Sandro Campagna ed Elisa Di Francesca, e quindi vi invito a prenotarvi per parlare con due grandi personaggi dello sport italiano che saranno qui con noi. 800 24 0024 è il numero verde. Tutti convocati. Pep Guardiola viene a giocare al tanga, uno contro uno. Tu sei spagnolo, hai tecnica. Se non vuoi venire qua, fai costruire un campo là. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Andiamo, let's go! Tutti convocati. Allora, due grandi ospiti sono in arrivo. Sandro Campagna ed Elisa Di Francesca saranno qui con noi, pronti a rispondere anche alle vostre telefonate 800 24 0024 numero verde. Intanto lo stoico Daniel da Milano